un podcast, quindi sul sito si possono riascoltare le nostre iniziative, le nostre conferenze, tutto quello che noi organizziamo con degli ospiti. Siamo in una fase di transizione dove il nostro sito sta cambiando, però insomma il materiale intanto lo registriamo e a breve sarà disponibile. Chi non ha l'occasione di partecipare a qualche conferenza può poi scaricare e ascoltarsela, insomma, o venire con la biblioteca e ascoltarsela dal computer della biblioteca. Certo, scusa, pronti? Sì, sono da Fatimano. Allora, Prato, pochi saluti, ringrazio il nostro ospite, è arrivato anche l'altro autore, buongiorno, Piano. Ecco, ci siamo quasi tutti, benissimo. Ieri è stata una giornata intensa, abbiamo iniziato la mattina con alcuni ospiti e poi il pomeriggio ci siamo ritrovati e piano piano, anche col favore degli orari magari più comodi, abbiamo visto crescere sempre più l'attenzione. E dicevo che proprio ha fatto piacere anche che la RAI fosse presente già ieri mattina, abbia dedicato il giusto spazio anche per le nostre iniziative, le iniziative dell'associazione, dando risalto a quella che è l'attività appunto dell'Associazione Scrittori di Bolzano. E che è un segnale di vitalità di una città, come abbiamo sottolineato ieri, perché tantissime persone della città, di una città così piccola, direi, che sono animate dalla lettura e dalla scrittura, hanno questo interesse e lo coltivano con grande sapienza, per me, per tutti noi, è un grande segnale di salute nell'ambito culturale e di viva città. Il programma di oggi lo conoscete, abbiamo appunto come moderatore Giorgio Gabbia, che avete conosciuto ieri anche nella veste di scrittore, che ringrazio tantissimo di essere qui con noi, una vecchia amicizia che ci lega da decenni, è stato il mio maestro di dizione ed eravamo insieme però era più bravo, non voglio più saperti. Ecco, io insomma faccio delle libere interpretazioni. Non una volta, ma addirittura il padre che le ha regalato, le ha fatto dono della quota di partecipazione, non è stato contento di una volta, poi ha detto devi tornare. Lei è dovuta tornare nel giro di quanto? 10 anni. Insomma, io ogni 10 anni devo vedere il giorno. Senza 3. Va bene. Senza 3. Quindi ringrazio tantissimo Giorgio Gabbia, ringrazio Roberto Marino che è il nostro poeta e ci piace sentirlo e ascoltarlo perché è molto gradevole. L'ho già bloccato perché ho detto che abbiamo un progetto, vai là. Bene, stai attento, state attenti perché ne è imprevedibile e io lo seguo volentieri, quindi è pieno di sorprese. Ecco, faremo tante belle cose per tutti noi, per la cultura. E quindi sarà la volta di Roberto Marino, poi ci sarà Graziano Montalotti, Piero Ferrero e infine Giuseppe Maiolo. Gli autori li presenta adesso Franca Carol, che è la vicepresidente dell'associazione, che ringrazio perché ha fatto un lavoro strepitoso in questi mesi, ci ha portato i libri, ha coinvolto tutti gli associati, certo, ci ha organizzato la raccolta, insomma si è data da fare in una maniera strepitosa e anche per queste due giornate, devo dire, senza la sua collaborazione avremmo avuto difficoltà, quindi l'associazione deve essere veramente anche consapevole che ha delle volontarie, dei volontari anche molto professionali. Grazie e una buona giornata. Grazie, buongiorno. Io vi porgo il saluto da parte dell'Associazione Scrittori, in particolare del suo presidente, professor Vito Bascolia. L'associazione è nata circa 3 anni fa e a seguito di un'iniziativa di aggregazione di un gruppo di amici capitanato dall'avvocato Alberto Pasquali. E 3 anni fa nasce anche l'idea di fare questa carrellata di autori che abbiamo denominato Settimana dello Scrittore. Quindi questa è la terza edizione, la prima l'abbiamo tenuta al Circolo Cittadino, la seconda l'anno scorso nella preziosa sede suggestiva del Castel d'Arezzo, e quest'anno siamo ospiti qui della biblioteca Claudio Augusta. Appunto è rimasta, abbiamo mantenuto la denominazione settimana dello scrittore anche se quest'anno è stata ristretta a due giornate, con un'estensione temporale in verticale piuttosto che orizzontale, e questo, insomma, come abbiamo visto, ci ha un po' penalizzato sia ieri che oggi, ma nel pomeriggio ho visto che riusciamo a recuperare. È un'esperienza. Niente, io a questo punto quello che volevo dire e sottolineare in modo particolare è che questa esperienza della settimana ha un significato, quello di farci conoscere al pubblico, alla cittadinanza, in modalità gruppo, no? Dove appunto privilegiamo l'aspetto, diciamo, di un'esecuzione piuttosto orchestrale rispetto a una presentazione di singoli autori, che naturalmente hanno poi modalità e tempi di presentarsi sempre a cura dell'associazione in altri contesti, in altre sedi, oppure per iniziativa privata sicuramente. Però questo della settimana del scrittore, che è questa rassegna istituzionale dell'associazione scrittori, ha questo significato, e su questo volevo portare l'attenzione. Lascio la parola a Giorgio Dalpiai, che è appunto nella doppia veste di moderatore e di autore. Come sapete, lui è stato speaker sportivo, autore di teatro, docente di edizione, eccetera, autore di romanzi e poesie. È suo lo spazio. Molto inedite anche, a volte. Prego. Roberto Marino dice del libro che ha presentato e che intende divulgare, naturalmente, siamo in una surrealistica Bolzano del 2021. Sette donne di Bolzano sono le protagoniste del romanzo. Le loro storie di vita, con sofferenze e gioie diverse, raccontate anche nei loro diari, insieme alla loro intimità, si vanno ad incontrare con la storia di uno strano uomo, il signor Marco Martini. Mi fermerei qui perché poi spetta a lui arrivare ed entrare nel vivo del suo racconto. Vi dico di Roberto Marino, che è nato nel 61 a Mezzo Lombardo, però mi pare che viva a Laives, esatto, ed è, insieme alla figlia Nathalie, titolare del Caffè Lettera 7, il caffè letterario noto per le sue numerose iniziative letterarie. Come proponente in quel di Laives viene e si presenta. Penso che anche un pubblico così ridotto valga l'attenzione che l'autore deve prestare a chi lo ascolterà e a chi lo apprezzerà. Grazie e buon ascolto. Allora, buongiorno a tutti, grazie per questa presentazione. E, appunto, io adesso magari vi dico qualcosa di me, poi parlo un po' del libro. E appunto, abito a dire la verità, comunque è vicinissimo a Laives. E a Laives, insieme a mia figlia, abbiamo un caffè letterario. E faccio parte anche di un'altra associazione, l'associazione Lettera 7, che è stata fondata nel 2015. E qui mi fa piacere vedere i nostri amici aderenti a questa associazione. Ringrazio tutto il resto del pubblico, ringrazio anche particolarmente la Silvina Tazza Borgogna, che viene da Salorno ad ascoltarci. È un artista che fa delle bellissime opere. Ecco. Dopo di questo, devo dire appunto che io lo scrivo da quando ero un ragazzo, no? Però c'è intanto da ringraziare molto l'associazione degli scrittori Bolzano, che mi ha invitato a far parte di questa appunto associazione. Ringrazio particolarmente Claudio Crepagli, che è stato lui a contattarmi, anche se ho poco tempo da seguire. E quello che ci tengo a dire, mi fa piacere dire a questa occasione qua, che io scrivo, ho già pubblicato 5 libri, però diciamo, io voglio dare la mia testimonianza, dare coraggio ai giovani che hanno la passione della scrittura, perché io da giovane ho dovuto finire le scuole molto presto, a 17 anni ho preso un diploma di contabile d'azienda per cominciare subito a lavorare, perché in casa non c'erano soldi. Quindi non ho ho la laurea, non ho niente, però avevo sempre questa passione della scrittura. Poi appunto mettevo da parte vari appunti e poi ho cominciato a fare associazioni, e quindi il sogno è andato avanti fino ad arrivare a delle pubblicazioni, anche se sono delle, diciamo, da me finanziate, insomma, però con l'andare del tempo mi sono trovato nel mio stile personale e ho imparato a leggere molto, ascoltare altri autori e quindi un po' alla volta mi sono fatto un piccolo pubblico che è cresciuto sempre di più fino a formare questa associazione letteraria, poi adesso con il caffè letterario proponiamo diverse iniziative. Quindi questa mia presenza qua oggi, ma anche in altre sedi, è un incoraggiamento ai giovani, anche quando non ci sono possibilità, di andare avanti, di proseguire, di non mollare il sogno, se hanno il sogno della scrittura, ecco. Poi, per quanto riguarda il libro, è un libro, diciamo, che è fatto in collaborazione con una artista di Trento, che però è di origine austriaca, e si chiama Bettina Seidel, perché lei è l'autrice non solo della copertina, ma anche di vari disegni che ci sono all'interno dello stesso libro. E sono ben 17 disegni molto belli, perché ogni capitolo inizia con un disegno. Io trovo geniale quello del capitolo 17, dove si vede una tastiera di un pianoforte sulla spiaggia di un mare. Quindi, oltre ad essere molto bella, solo l'idea di questa. Di questa proprio un'immagine di fare arrivare la musica fino al mare. Domanda, se posso agevolare. C'è un punto nel libro che tu hai immaginato poter proporre a un pubblico di questa sala quando tu fossi arrivato qui per presentarti come autore? C'è un punto nel quale tu possa far capire che il libro si impernia, la vicenda si impernia su quel punto o su un altro punto? Ci deve essere, ci sono dei segnali, quindi qualche cosa di interessante deve esserci. Esatto, adesso appunto colgo l'occasione di questa domanda per leggere un pezzettino del capitolo Bolzano Notte, che è quello che dà anche il titolo a tutto il libro. Talvolta la notte si trasforma in un riassunto di pensieri, parole e fatti del giorno precedente o dei giorni precedenti. E si sa che i riassunti sono essenziali per mettere un po' di necessario ordine ed anche per avere qualche idea più chiara su ciò che si vorrà e si potrà fare nel futuro. Però la notte, oltre a rappresentare una possibilità di riassumere certe particolarità dell'esistenza, ha comunque un suo fascino. Di notte succede che le persone più sensibili alle potenzialità della vita e della mente umana, dopo varie delusioni, frustrazioni e sconfitte, anche laceranti, pensano con grande forza a qualche trasgressione da fare, per sconvolgere qualche nemico, per imprimergli la loro sfacciataggine e mostrargli che non si sono arrese. Non sono insonnie queste voglie di rivincite, sono pensieri determinanti e determinanti che si formano e ritornano tra un momento di sonno e l'altro, intervallati da qualche sogno più o meno bello, più o meno significante. Sono pensieri che si concretizzano poi in importanti successive azioni diurne, capaci di governare almeno in parte gli eventi delle giornate. Il fascino della notte è proprio il suo buio, il suo nero. Il nero che però, se si smette di temerlo, è capace di trasmettere dell'eleganza al corpo e alla mente, proprio come gli abiti di certe signore. Ecco, appunto il titolo del libro è Bolzano Notte, perché si concentra un po' su un'idea, appunto è un libro di genere surrealistico, si concentra un po' su delle idee che un signore, il protagonista di questo libro, il signor Marco Martini, raccoglie da 7 donne di Bolzano, tutte con le loro storie di vita anche dolorose, per appunto raccogliere queste varie idee per proporre una Bolzano notturna un po' più vivibile, E, ad esempio, c'è chi parla di in queste proposte di aprire le biblioteche, tenere aperte, tenere funzionanti le funivie per fare dei viaggi intorno a questa Bolzano, per scoprirla un po' più umana anche di notte, perché di notte c'è anche gente che non sempre dorme e magari dopo una giornata o un periodo doloroso, faticoso, vorrebbe incontrare delle persone, parlare, dialogare. E allora nascono queste idee che vengono riassunte tutte nel finale. Il protagonista. Scusa, ti interrompo anche per darti la possibilità di respirare, tranquillo. Tu dici della signora Nilla, tu parli qui, la signora Nilla, altra misteriosa figura di questo libro, vuol dire che ce ne sono prima, nelle quali stai raccontando il pezzo sopra, donna che passa spesso per Bolzano tra un viaggio e l'altro, è frequentemente in contatto con Marco Martini. La signora Nilla viene raccontata nelle sue avventure, non soltanto amorose, nella città di Bolzano, Venezia, Londra ed in altre località italiane ed europee. Emerge fortemente la forza di questa donna, forza accompagnata da costante eleganza, da femminilità. Mi pare che sia un personaggio centrale del libro. Sì, la signora Nil, appunto. Parti del nome, è Nina, quella è la. La signora Nil è, diciamo, anche lei la protagonista, anche se lei, appunto, essendo una donna misteriosa. Poi la signora Nil è anche la protagonista dei miei precedenti libri. E, appunto, lei è una donna strana, molto forte, caratterialmente, che appare e scompare in vari pezzi di questo libro, diciamo. E poi ricompare in maniera determinante nel finale, che però magari non lo citiamo perché sennò manca la sorpresa finale del libro, ecco. Magari vi leggo un pezzettino che si può far dare un'idea di questa misteriosa signora Nilla. La signora Nil non ha mai amato i finali, né i saluti tipici degli atti finali di qualsiasi evento vitale. Infatti lei non svela mai a nessuno quello che farà o quello che penserebbe di fare nel suo futuro. Lei, negli atti finali dei vari eventi nei quali si trova coinvolta, sparisce, per poi tornare inaspettatamente in altri futuri e diversi eventi che fanno nervosamente non noiosa la vita su questo pianeta. Così lei vive i suoi momenti dell'esistenza e i suoi musicali sogni. Quindi appunto è una donna particolare che appunto appare, scompare, poi torna in modo determinante nel finale. Le altre protagoniste, oltre alla signora Martini, appunto sono queste sette donne, dove diciamo si vede il loro stile di vita, e però nel finale vengono tutte coinvolte in seguito ad un invito a trovarsi in un caffè letterario, casualmente, e lì fanno la conoscenza di questo signor Martini, che prima le aveva solo contattate in un modo un po' strano, e dopo viene fuori questo finale che è un po' amaro, però è anche, diciamo, è simpatico. Il signor Martini invece siamo nella Bolzano del 2021, è un uomo che si trova in uno stato di quasi povertà dopo aver sperperato denari, aver guadagnato anche soldi, aver sperperato tutto, aver fatto una vita anche da donaiolo e averne combinate di tutti i colori, però dopo si trova nel finale in un modo un po', diciamo, triste, però lui è anche felice di se stesso perché ha fatto la vita in modo autentico. C'è un bel disegno sulla figura del signor, questo signor Martini, che è, si vede un uomo che si vede che è quasi un barbone, ma non è proprio un barbone, su una panchina con un po' di grigiore intorno, con in mano una rosa rossa, e praticamente lui si trova a riflettere su tutti gli errori della sua vita, ma anche sul bello che gli è rimasto, i ricordi di qualche amore particolare con questa rosa rossa. Ecco, sostanzialmente il libro è questo. Poi però quello che c'è di interessante, siccome io prima di fare prosa, facevo esclusivamente poesia, adesso faccio della poesia romanzata, la considero io. C'è un capitolo dove si parla di una stanza della poesia, dove ci sono diverse poesie. Questa stanza della poesia è nella casa di una delle protagoniste, che si chiama Isabella. È un posto un po' dove lei si rifugia nei momenti in cui ha bisogno di estraniarsi un po' dalla quotidianità. Già una strofa poetica in una stanza, già una strofa poetica, abbinata quella con il luogo proprio. Esatto, adesso io magari vi leggo qualche poesia di queste, magari... rispecchia anche la mia personalità. Animale, sono un animale della poesia, un folletto che ogni tanto riappare, sono uno che raccoglie sulle strade, nei bar, sugli autobus, quello che i sapienti negano come poesia, la poesia della gente, e che dopo averla impastata la restituisce alla gente che la sa apprezzare. Sono un ognomo cacciato via dal castello, scappato nel bosco e poi tornato nelle stanze delle donne belle, belle anche dentro, che talvolta mi aspettano. Sono un poeta d'Unterland, capace di sopravvivere nella terra d'Unterland, capace di camminare al buio nella città sotto la città. Sono un animale che sa vivere anche coperto di terra, senza sentirsi sepolto. Uno che torna nei palazzi, sporco di bosco, che sembra anche gentile, ma poi dà spintoni e alza la voce se non viene ascoltato. Sono un animale della poesia e posso scrivere e dire quello che voglio. Possiamo anche concludere così, magari certo. Vi leggo un'ultima poesia quasi provocazione. Schiaffo, sono uno schiaffo che ricorda le convinte credenze nel bene e nel male, uno schiaffo che propone politici dialoghi tra il di qua e il di là, sono uno schiaffo che per mestiere ricorda le facce delle tante, le facce delle troppe dimenticate vittime. Grazie. Bene, grazie a tutti. Grazie Roberto. Intanto, visto che è arrivata un'antica conoscenza mia, Marina Vanganaro. Ciao Marina. Tu hai già fatto con il tuo libro? Hai già fatto con il tuo libro? Ho presentato il 13 novembre un altro... Non hai voluto un convivio come questo? Sì, facciamo anche gli altri però, perché sì. Sennò dopo... Thank you. mettere personalmente sono appassionato di giallo, di libro giallo, non ne ho mai letto uno, mai. Ho guardato diversi film quando c'è un intreccio che affascina, un qualche cosa che ti lasci un po' stordito, perché ti accorgi che è tale l'intreccio che ad un certo momento non riesci più a ragionare chi sia il protagonista, chi sia il coprotagonista, quante donne siano passate, quante spie soprattutto siano passate. Il nostro scrittore, Graziano Bortolotti, tra l'altro, io ero a scuola in liceo con un Graziano Bortolotti, purtroppo ce lo siamo detti, lui sapeva, ma il nostro Graziano Bortolotti, che non è più, ha avuto purtroppo a suo tempo un grave incidente. Beh, quando io ho letto Graziano Bortolotti, dico, prendimi della fotografia, perché non è possibile, dovrebbe avere la mia età, quindi ad un certo momento, visto che lui è molto più giovane. E sentiremo da lui, perché è difficile farsi dire da un giallista come termina naturalmente la storia. Questo non ce lo dirà mai, dirà soltanto fatemi la cortesia, arrangiatevi. Il libro c'è, andate a vedere in fondo, fate come di solito il maggiordomo, che è il colpevole, ma sa già all'inizio che è stato lui, è colpa sua se è accaduto qualche cosa che la gente sta prendendo in considerazione. Noi stiamo aspettando, Graziano Bortolotti. Lo dirò in corso d'opera, via. Buongiorno anche da parte mia, davvero grazie dell'invito, grazie all'Associazione Scrittori e grazie in particolare alla signora Franca Carlo, perché attraverso lei ci sono i contatti ed è molto, davvero molto disponibile, precisa, insomma, ci si trova molto bene. Ti dicevo anche l'altro ieri a Radio ABC, è veramente una cosa importante questa associazione, oltre sicuramente per divulgare insomma la scrittura, le varie forme di scrittura, di cultura eccetera, e di forme di creatività, ma anche per valorizzare poi gli autori. E anche prima seguivo con molta attenzione l'intervento di Roberto Marino ed è molto bello questo. Ecco, io sono Graziano Bortolotti, vengo dalla Valle di Fiemme, quindi abito vicino, abito in montagna, sono nato lì e amo vivere lì. Amo vivere però questa terra, questa provincia, questa regione nostra che veramente molto molto bella e mi ha dato anche l'input per tante, diciamo, ambientazioni, soprattutto la prima. Poi a me piace partire dal piccolo per poi spostarmi in giro per il mondo e mi piace un po' scrivere come se poi la storia diventasse quasi un film, insomma, no? Un'immagine che mi porta lontano, porta il lettore lontano e poi ci riporta magari da dove siamo partiti. Ecco, sono praticamente, richiamo del Cedro, diciamo il mio terzo libro. Tutti questi libri appartengono al genere giallo thriller, diciamo che poi una strada facendo si sono anche ramificate un po' le cose, no? C'è un po' il crime in generale, il noir eccetera, comunque insomma appartengono a questa, diciamo, categoria. Il primo, La guerra non è finita, sicuramente è un giallo un po' più classico perché appunto ci sono verificati degli omicidi, una sorta di vendetta in un certo senso, e lì chiaramente il poliziotto doveva tutto scoprire, diciamo, i colpevoli. Il secondo e il terzo, cioè Pista di sangue e Il richiamo del cedro, sono più thriller, diciamo, no? Nel senso che trattano di argomenti appartenenti all'attualità o al passato, oppure che le due entità si mescolano, e però trattati con più, diciamo, mistero, non c'è proprio il classico assassino, classico da giallo, insomma, no? Magari seriale. E quindi ecco, sono sempre attratto dagli argomenti, soprattutto, no? Gli argomenti forti, argomenti che comunque toccano la società civile in un modo o nell'altro, o storicamente, o perché magari interviene l'intervento proprio dell'uomo, e questi argomenti mi piace appunto mescolarli per poi creare delle storie. Quindi in realtà mi baso su fatti veri, sentiti alla radio, letti sul giornale, e quindi a disposizione di tutti, e da lì parto creando appunto dei personaggi ad hoc, eccetera. Insomma, ecco, questo è un po' il mio modo di lavorare. Intorno al 2000 mi è nata, diciamo, la voglia di mettermi a scrivere. C'è stato quello scossone, perché si sente uno scossone, no? Quando si vuole scrivere qualcosa, si vuole dialogare con gli altri attraverso un libro. E un po' mi sono buttato da autodidatta, un po' però ho cercato di capire un po' le regole del mestiere, insomma. E ho partecipato qui a Bolzano a una serie di corsi, qui all'UPAD, c'è la scuola delle scimmie, a cura del professor Giovanni Accardo, e quindi mi sono fatto un po' un certo percorso. Poi, come tutte le cose, una volta che si imparano le regole, poi bisogna metterle in pratica, ma poi bisogna anche un po' disattenderle, no? Un po' come nella vita, in un certo senso. Cioè, bisogna conoscere, però, proprio ognuno ha il suo modo di proporsi. Per quanto riguarda questo, diciamo, allora, questo è il mio ultimo lavoro, che però si rifà già qualche anno fa, andiamo dietro al 2013. Sto per pubblicare il mio quarto libro. Prima di Natale dovrei uscire con il mio ultimo libro, che si intitolerà Le anime vendute, e parlerà del mercato clandestino degli organi. In pratica la storia seguirà un'inchiesta giornalistica da parte di una giornalista di inchiesta, insomma, questa reporter, e partirà per la Cina, perché ha avuto delle informazioni riservate circa la sparizione di organi da parte di detenuti in un penitenziario cinese. Questa, ad esempio, è stata una notizia apparsa sui giornali qualche tempo fa, insomma. Ecco, come del resto in Mozambico qualche anno fa una suora missionaria è stata uccisa perché gestiva un orfanotrofio, e lì i traffici di organi legati ai bambini soprattutto, purtroppo, sono fatti quotidiani. Ecco, da questi due fatti sono partito con questo lavoro. Tornando un po' alla presentazione, o comunque a parlare di questo mio libro, Richiamo del Cedro, e come diceva prima il nostro moderatore, sì, ha sempre queste caratteristiche di mistero, di giallo, di capire, insomma, cosa succede. Anche qui l'input l'ho avuto da un fatto vero, e qui vi riporto indietro al 1972, quando c'è stata la strage di Monaco alle Olimpiadi. Sicuramente molti di voi lo ricorderanno. Praticamente una squadra di atleti israeliani una notte nei loro alloggi è stata assalita da un gruppo terroristico di Al-Fatah, e ci furono diversi morti e ostaggi per un certo periodo di ore, per poi terminare all'aeroporto di Francoforte con un massacro di altre 10 persone circa. Quindi cosa è successo da questo fatto? Lei era un bambino, come fa a ricordarlo? Lei aveva 11 anni. Allora, io me lo ricordo per... Anzi, 10. Sì, io ho questo flash della televisione, mi ricordo benissimo questa immagine, che poi è stata fatta vedere un sacco di altre volte nel corso del tempo. Ho l'immagine in bianco e nero del televisore, e di questa palazzina di cemento, e di questo terrorista con il passamontagna che esce per guardare, insomma. Ho questo flash qua, poi dopo il tempo è passato, e poi dopo le cose ti ritornano. Quello che ha impressionato invece chi aveva qualche anno in più erano i due atleti di colore che sul podio, sul gradino più alto e su quello di destra, alzarono il famoso pugno nero. Esatto, anche quella prima. Certamente non avrebbero mollato per nessun motivo. È vero, è vero, è vero. chiedo scusa. No, anzi. Ecco, cosa è successo dopo questo tragico fatto? Il Mossad, il servizio segreto israeliano, ha voluto vendicare questo attacco. Quindi ha costituito una squadra di specialisti, gli ha fornito a questa squadra un elenco di responsabili, circa 12, 13, 15 persone, terroristi, insomma. Però la particolarità di questa cosa è che il servizio segreto in questo caso ha fatto una scelta molto particolare, cioè ha creato questa squadra, però l'ha fatta lavorare in clandestinità. Cosa vuol dire? Vuol dire che i 5-6 componenti di questa squadra non appartenevano a nessun servizio segreto, non potevano appartenere a nessun servizio segreto, perché per la prima volta si era deciso di uccidere i responsabili di questa strage. Avevano una possibilità economica infinita, non c'era problema per quanto riguarda i soldi, le spese, assolutamente, però non potevano uccidere nessuno a fianco al bersaglio. Se il bersaglio era insieme alla figlia o alla moglie, non potevano assolutamente uccidere anche la moglie, solo il bersaglio. Questo fatto mi ha veramente suscitato un grande interesse, e io ho fatto, diciamo, la stessa cosa con questa mia squadra che ho costituito in questa storia, in questo libro. Allora, questo libro ha, diciamo, una motivazione particolare, che è quella che ho vissuto io dal punto di vista di una certa apprensione intorno agli anni 2008-2010, giù di lì. Perché? Perché leggendo il giornale si vedeva spesso il discorso che l'Iran si stava pericolosamente armando dal punto di vista nucleare. Anzi, l'Iran aveva proprio annunciato: noi da oggi ci armiamo dal punto di vista nucleare. Cioè, ci armiamo, noi facciamo un progetto nucleare. Allora, l'Iran continuava a dire: vabbè, però lo facciamo per questioni civili, per energia, eccetera, eccetera. Nel mondo dei servizi segreti questa cosa non è antichita, quindi nessuno ci credeva, soprattutto non ci credeva lo Stato di Israele, che era il più minacciato, perché è odiato ovviamente dalla parte araba. E quindi questa apprensione mi ha portato a scrivere questa storia. L'aver rivestito i gradi di ispettore superiore della Polizia di Stato l'ha agevolata, oppure si è trovata di fronte a dei fatti che non avrebbe potuto, sondare per scrivere? Ma allora, qui devo essere sincero, io ho prestato per 35 anni servizio nella Polizia di Stato e ne sono orgoglioso ovviamente. Però la mia è stata una polizia, una bella polizia, nel senso che sono nato in montagna e io ho voluto dare senso alla mia vita in montagna. Perciò la mia è stata una polizia più di soccorso, più di vicinanza, sempre di sicurezza, perché la polizia è il prodotto polizia di Stato, come tutte le forze dell'ordine. Il prodotto che deve dare è sicurezza in qualsiasi ambito. Io mi sono occupato di sicurezza in montagna, quindi ho praticamente diretto per tanti anni la squadra, l'unità cinofila per quanto riguarda il soccorso alpino, mi sono occupato della sicurezza sulle piste di sci, quindi non ho avuto un bagaglio diciamo investigativo particolare, assolutamente no, perché è stata una mia scelta anche se mi sarebbe piaciuto, però ho vissuto lì. E anche se chiaramente di tanto in tanto anch'io sono andato a fare dei servizi a Verona in giro per ordine pubblico e quant'altro, quindi l'ambiente della polizia l'ho vissuto in toto, però ho dei contatti all'interno della polizia, degli amici, delle situazioni in cui ho recepito per tanti anni quello che è, insomma, il lavoro della polizia, le indagini, le situazioni delicate, e queste mi sono servite ovviamente. Quindi la scuola alpina di Moena. Esattamente, il centro di addestramento alpino. Certo. Sì, io sono entrato come atleta nel 1980 e ho fatto l'atleta professionista per 5-6 anni, dopodiché mi sono specializzato in altre cose, però ho dato senso alla mia vita. Ho posso sottolineare, per averlo vissuto quel periodo, che le scuole alpine di Predazzo di Moena, cioè da una parte la Polizia di Stato e dall'altra la Guardia di Finanza, avevano i migliori atleti fondisti che avesse l'Italia a disposizione, tanto poi che vengono, erano disposti a vittorie olimpiche e a vittorie mondiali in modo particolare. Sì, io anche vengo dal fondo, purtroppo non sono riuscito a partecipare a nessuna Olimpiade, però la marcia loca, ad esempio, mi sono classificato, la prima marcia loca che ho fatto 20° terzo degli italiani, quindi insomma dai, qualche piccola soddisfazione. Poi comunque rimane uno sport meraviglioso, no? Uno sci di fondo in mezzo alla natura è fantastico, questo sì. Ecco, quindi tornando a noi, io ho preso spunto da questa vicenda vera, reale, e ho fatto vivere le stesse sensazioni, le stesse problematiche ai miei protagonisti. Perché, se scrivi un giallo o comunque un thriller, è chiaro che devi essere un po' crudo alle volte, quindi dici, formiamo una squadra che deve eliminare queste persone che sono pericolose e le devono uccidere. Infatti li uccideranno, li elimineranno, però uccidere non è così, chi lo deve fare, soprattutto se è una persona che non è una persona squilibrata, è una persona che ha il suo equilibrio ed è una persona insomma normale, prima o poi ha delle crisi, ha delle forti crisi. A parte la paura di essere poi, perché per quanto tu possa essere scaltro, intelligente, organizzato, però non la fai franca, cioè c'è sempre qualcuno che sa, c'è sempre qualcuno che ti insegue. E quindi anche questa squadra, che ha un suo leader, e questo leader ha un capo sopra di lui, a un certo punto si porrà delle domande: ma cosa stiamo facendo? Ma possiamo fidarci del numero uno, della locusta, che ci ha detto che ci sono queste persone che stanno aiutando Iran, questo Stato, ad armarsi della bomba atomica? Ma sarà proprio così? E poi dopo intanto devono continuare ad uccidere. Il protagonista, questo Frank Mercury, che si era ritirato nel Renault proprio per scappare alle sue vicissitudini, aveva avuto dei grossi problemi, si era lasciato con il suo amore, insomma, della sua vita, e purtroppo aveva dei problemi di alcol, era un alcolista, quindi si era rifugiato in Redon per trovare un po' un senso della vita, ed era una persona che veniva ritenuta non affidabile proprio perché aveva questa dipendenza dall'alcol. Però anche lui, in quel momento che non beveva e non beveva più, si è chiesto: ma non mi posso fidare veramente? Cioè, cosa sto facendo? Nel frattempo qualcuno gli stava dando la caccia anche a loro, quindi uno e poi due componenti della squadra clandestina sono stati a loro volta uccisi da qualcuno che non voleva chiaramente che loro andassero fino alla fine di questa storia. Perché non dovevano arrivare alla fine di questa storia? Perché alla fine il grosso dubbio è proprio quello di chiedersi: ma la persona che ci ha dato questo incarico, ma chi è veramente? Ma è quello che noi pensiamo? E qui non voglio svelare tutto, però dico solo questo, che lo dico alla fine del libro. Alla fine del libro dico due cose. Dico che non mi metto a giudicare adesso a livello politico, perché non sono nessuno, se uno Stato si arma dal punto di vista nucleare e l'altro no. Io dico solo che mi preoccupa ovviamente, no? Questa cosa mi preoccupa molto, perché come faccio dire a uno dei protagonisti, cioè la locusta, che è il capo che dà questo incarico a questa squadra, dice un'agenzia di studi ha cercato di immaginare un conflitto nucleare tra l'Iran e lo Stato di Israele, un conflitto che potrebbe durare dalle 2 alle 3 settimane, e il risultato, sapete quale sarebbe, qual è, sarebbe, non rimaniamo a quel condizionale. Il risultato è che una cosa del genere produrrebbe in Israele dai 200.000 agli 800.000 vittime, in Iran dai 16 milioni ai 23 milioni di morti. Lo Stato di Israele non sparirebbe perché è talmente ben organizzato e ha degli scudi talmente ben protetto che non sparirebbe, come qualcuno invece sostiene, però sarebbe un massacro, anche perché poi tutta l'area lì è chiaro che si potrebbe essere coinvolta. E quindi questo è un aspetto. L'altro aspetto è che mi ha impressionato e che il libro poi rivelerà strada facendo, è che un articolo che ho letto sulla Repubblica e parlava di questi figli della guerra, cioè i war children, vengono chiamati così in Norvegia anche, no? Sono persone che adesso hanno una certa età, però sono ai margini della società, devono cercare di non farsi, diciamo, riconoscere, soprattutto devono cercare di non far emergere la loro storia, perché sono figli di esperimenti legati alla razza ariana, no? E quindi molte di queste persone sono poi si sono trovate disadattate, ci sono molti suicidi, ecco, ed è un po' la cosa che rivelerà verso la fine questo libro. Quindi butto là solo questa cosa, ma ecco. Il fatto di essere ancora collegato con la scuola militare di Molina le capita, le suggerisce delle volte di andare a rintracciare i giovani colleghi, non tanto i vecchi colleghi, per farsi raccontare qualche cosa che a lei potrebbe servire per iniziare un nuovo racconto? Allora, tutto può essere utile, qualsiasi situazione, da qualsiasi situazione si fa qualcosa. Però più che, diciamo, dove lavoravo, che è il posto che mi rimarrà sempre nel cuore, ecco, come tutti, diciamo, gli scrittori, immagino, come gran parte, sì, almeno in questo genere qua, ho i miei contatti. Io ad esempio, e anche qua cito in tutti i libri, ho un grande amico che fa che lavora in questura a Livorno, e lui me ne racconta di cotte di crude, insomma, no? Quindi quando ci troviamo o a sciare o al mare, io sto là e ascolto, e chiaramente è un prendersi appunti di tutte queste cose. Il prossimo progetto sarà molto interessante dal mio punto di vista, quantomeno, perché mi avvarrò, diciamo, di una serie di professionisti veri che esistono. Una persona è una biologa forense, che è una figura molto importante sulla scena del crimine, non tanto sulla scena del crimine, ma dopo, a posteriori. E invece ho un caro amico, nonché un collega, che praticamente lui ha un cane addestrato esclusivamente per la ricerca di cadaveri, perché i cani sono delle grandi possibilità per noi umani, per sentire gli odori, eccetera. Però anche i cani, non è che un cane può fare tutto. E quindi questo mio collega è andato in Svezia e poi in Germania a fare dei corsi e utilizza il cane solo per la ricerca di cadaveri, e quindi lì inizieremo a scrivere un po' di storie legate al cold case, no? A quei casi irrisolti, e quindi là ci sarà un protagonista, questo poliziotto col cane. Quindi per me è utile, ovviamente. Chiaramente nessun fatto viene, tantomeno le cose che sono ecco, questo è molto importante dire, cioè non si può mai parlare di casi ancora aperti, cioè se ci sono delle indagini non si può mai oppure far capire determinate, no, bisogna sempre mescolare le carte, lavorare con materiale che comunque è già a disposizione e poi lavorare con la fantasia, insomma. Grazie a Graziano. Grazie a voi. Grazie. bene, ci vediamo presto. Ciao. Thank you. Bürgermeister Wasser. Il dottor Giuseppe Maiorlo. No. Arriva dopo. Comunque due psicoterapeuti, quindi. Non vedevo l'ora di sbagliare. Ma perché deve andare tutto bene? Non ho capito. L'ora delle 11:10. Il dottor Pietro Ferrero. Pietro. Nato a Torino negli anni passati. Psicoterapeuta, attento non solo alla persona sofferente, ma anche al mondo familiare e sociale che gli è intorno. Non credo sia accesa la mia mano. È accesa? Sì. Mio tecnico, va benissimo. Oggi vive ed opera in Trentino Alto Adige. Non lo sapevo, complimenti. Lei è un nostro conterraneo. Bene. Se stesso annuncia il dottore che il volume che ci presenta quest'oggi raccoglie una selezione di scritti composti dall'autore per discutere insieme con i soci dell'associazione, gli amici, persone curiose di capire qualcosa in più su come funziona quell'universo dentro di noi che si chiama mente. Abbiamo un'occasione unica per sentire effettivamente che cosa capita a noi nel momento in cui diciamo mio Dio, non riesco più a capire qualche cosa. Ce lo spiega la professore? Volentieri. Vada tranquillo. Allora, come avete sentito, sono un immigrato. Sono qui da 13 anni e vengo da Torino e ho avuto la grande fortuna di trovare un paese dove vivere e dove mi trovo veramente molto a mio agio, che è Collalbo. Quando esco anche questo è il segno. Se c'è rumore, distrae tutto il pubblico che non capisce cosa sta dicendo. Se c'è rumore, abbiamo mandato il fanciullo che zittisce le persone fuori. E siamo morti. E possiamo andare avanti. Prego. Ovviamente ringrazio Franca Caro, che è dell'Associazione Scrittori, che mi ha voluto qui questa mattina, e questa cosa può avermi fatto un grande piacere. E ringrazio il mio moderatore, che mi auguro che sia clemente. Io sono assolutamente sì. Ah, io sono dalla sua parte. Meno male. Noi siamo sempre dalla parte dell'autore, dell'ospite in questo momento. Allora siamo a posto. Ho sentito con molto interesse le due persone, i due colleghi scrittori che mi hanno preceduto. In modo particolare ho sentito parlare Graziano Bortolotti della guerra nucleare, e questo mi ha fatto rizzare le orecchie, perché nel secondo libro di cui vi parlerò a breve c'è proprio un articolo provocatorio, il titolo "La guerra nucleare, un inno alla vita". Quindi è un argomento, un tema sul quale sono molto molto sensibile. Allora, io esercito la mia strana professione dalla bellezza di 49 anni, non ho ancora smesso, un bel giorno smetterò, ma per adesso no. E sono contento di poter essere di utilità a persone ancora del Piemonte, del Trentino, dell'Alto Adige. E a un certo punto mi sono messo a scrivere articoli sul mio lavoro nel 2000, ne ho scritti più di 60, e con l'associazione che ho fondato 31 anni fa e che si chiama l'Associazione degli Amici, che citava il moderatore un momento fa, ci siamo detti: ma perché non farne dei libri? Per cui in realtà questo mio libro, La verità nascosta, non è un libro che ha un inizio e una fine come normalmente avviene, è una raccolta di articoli. Nel primo libro, La verità nascosta, abbiamo riassunto, abbiamo raccolto i libri, gli articoli che riguardano l'individuo e la famiglia, e quindi di tono più intimistico, però abbiamo continuato a che evidentemente il giovane di bello aspetto non ha influenza sufficiente. Il giovane di bello aspetto. Disturbo. A posto. Ringrazio. E quindi riguarda più la vita intimistica e individuale. Nel secondo libro, che uscirà ancora per Erickson a dicembre, quindi siamo proprio alla vigilia, che porterà il titolo I due mondi, invece riguarda temi di carattere più sociale. E addirittura si arriva a parlare dell'Europa, parlo, ho cercato di percorrere la mente di un foreign fighter e quindi mi sono domandato che strada fa questo signore che lascia la famiglia normalmente bene di Milano, di Parigi, di Roma, va a iscriversi nelle file dell'ISIS e poi viene a uccidere, ma non a uccidere quella persona lì o quella persona là, a uccidere Bataclan e vari altri episodi che tutti ben conoscete. Ecco, mi sono posto il problema di perché questa Europa fa così tanta difficoltà a unirsi e a far sentire una voce sufficientemente autorevole. Insomma, in questo libro ho esteso un po' lo sguardo come psicanalista. Io amo parlare andando vicino alle persone, quindi non me ne vorrà il moderatore se mi avvicino al pubblico. Sono, ecco, così mi vedo più da vicino, sono più a contatto. Allora, cosa deve scattare a un certo momento? A un certo momento è scattato questo meccanismo. Mi sono detto, ma perché questa padronanza che mi sono fatto della vita mentale, soprattutto inconscia? Oh, grazie, così siamo. Ho visto che sei girato e ho detto no, davanti. Perfetto, grazie. Mi sono detto, perché deve rimanere soltanto appannaggio di uno psicoterapeuta e di quei pazienti che si affidano a lui? Ci sono molte persone, come suppongo siate anche voi, che hanno piacere, hanno interesse a conoscere come funziona questa mente. Tra l'altro abbiamo anche un grosso apporto che ci sta arrivando proprio in questi anni dalle neuroscienze, che hanno calcolato la bellezza di 86 miliardi di cellule qui dentro, divisi in 53 lobi, e dove ogni lobo ha una sua funzione ben precisa, dell'apprendimento, dell'emozione, dell'orientamento e avanti. E allora mi sono detto, perché deve rimanere soltanto di pochi questa esperienza? Scriviamolo, di qui gli articoli e di qui questo libro La verità nascosta e poi il successivo che vi dicevo I due mondi. Cosa esploro? Che cosa porto a conoscenza? Porta a conoscenza il mondo inconscio, che è, ci piaccia o no, è la parte più vasta della nostra mente. La parte cognitiva, intellettiva, comportamentale è la parte di superficie. La mente viene molto sovente paragonata a un iceberg, di cui vediamo la punta, ma non vediamo invece la parte di sotto, che poi in effetti è quella più estesa. Noi forse ci illudiamo di fare delle scelte molto nostre, molto intelligenti, molto pensate. Mi dispiace dirvelo, sono molto meno. Se volete accomodarvi, io sono più contento, perché vedere girare le persone, credetemi, per chi parla non è piacevole. Ci piacciono più le neuroscienze studiano questo problema, più approfondisco anche la vita dei miei pazienti e più mi rendo conto che in realtà il nostro margine reale di libertà di scelta è molto molto ridotto. Nel libro parlo del transgenerazionale, ovvero sia di questi passaggi di menti dal nonno, non possiamo andare più in là perché non abbiamo poi i dati di conoscenza, ma potremmo certamente andare anche oltre, il nonno, il padre, il figlio, e vediamo quanto si rinnovano questi modelli. modalità di pensiero, questi moduli mentali. Fa impressione vedere questo, ma è così. Allora, cosa fa lo psicoterapeuta? Cerca di riguadagnare una parte di autonomia, una parte di libertà di pensiero a chi la sta perdendo. La nevrosi, peggio ancora la psicosi, che cosa sono? Sono nient'altro che un cumulo di emozioni negative che a poco si estendono sempre di più e che vengono a sovrastare l'io, cioè l'io si riduce sempre di più ed è sempre meno capace di valutare, di giudicare, di fare poi delle scelte che possano considerarsi ragionevoli. Quindi diventiamo vittime delle nostre emozioni. Vi dirò una cosa molto bella, che ha cambiato anche molto la mia personalità. Io un tempo ero molto più severo, molto più rigido, poi via via passando gli anni sono diventato più morbido. E soprattutto più morbido, più comprensivo, via via che mi rendo conto proprio di questo fatto, e cioè che noi non siamo così responsabili e dunque anche così colpevoli. Se leggerete nel prossimo libro la storia, i passaggi che fa un foreign fighter, alla fine non vi dico che lo elogiate, ci mancherebbe altro. I delitti che commette sono delle scelleratezze e scelleratezze restano, questo sia ben chiaro. Però se si legge la storia che c'è dietro si comincia a dire ma. Molti anni fa una congregazione religiosa mi ha chiesto che mi occupassi a Torino, ero ancora a Torino, di un loro confratello che aveva abusato quantomeno di bambini. Io vi assicuro che ho fatto di tutto per farmi questo carico, perché proprio mi rivoltava, insomma, come uomo prima di tutto, poi anche come psicoterapeuta. Alla fine, per tante ragioni, ho dovuto dire di sì, ed è venuto da me questo uomo, 60 d'anni. Tra l'altro vi dirò che siamo diventati due grandi amici. Oggi tutto questo che ha commesso appartiene al passato ed è completamente finito, in parte anche grazie al lavoro che abbiamo fatto, ma aveva già fatto un po' di percorso suo personale. Quando ho sentito la storia di quest'uomo, figlio di due ricastolani, nato in carcere da una madre che all'epoca, oggi il regime per fortuna è diverso, ma all'epoca c'era il diritto di allattamento per 2 ore al giorno, quindi vissuto, capite, in un carcere fino all'età di 2 anni. Immaginate cosa può aver visto, cosa può aver soprattutto, è una capriccia. Ha raccolto il peggio. Immaginate cosa vuol dire vivere per un bambino in un carcere, un bambino poi è una spugna, noi non sappiamo, forse voi lo sapete, ma no, io devo saperlo, quanto assorbe la mente fino almeno all'anno e mezzo, è una vera e propria spugna, poi a poco subentrano altri strumenti mentali che ci mettono un po' più a distanza dal mondo, ma nel primo anno il bambino assorbe tutto quello che gli arriva, soprattutto nel campo emozionale e affettivo. Immaginate la storia di questo bimbo che nasce in un carcere, madre mafiosa, padre mafioso, e il clima di questo genere. Ha visto per la prima volta delle ragazze quando aveva 16 anni, perché è passato poi dal carcere a un istituto maschile. Quando insomma io ho finito di sentire la storia di quest'uomo, mi sono detto, ma e se fossi stato io al suo posto? Lascia a voi le risposte. E ecco perché uso molto la parola clemenza, e se leggerete questo libro la troverete proprio tratteggiata lungo tutto il percorso che faccio. clemenza, che non vuol dire non amo il perdono. Perché non amo il perdono? Non amo il perdono perché mi sembra che ci sia qualcuno dall'altro che dice ma sì, vai, ti perdono. Questo non mi piace molto, mi fa sentire uno che resta superiore rispetto a un altro inferiore. Amo invece molto di più la parola clemenza, che vuol dire capacità empatica di metterci nei panni dell'altro, di capire l'altro. Non per niente nella presentazione dell'associazione di amici, chi vuole prendere quel breve riassunto che c'è di lo può prendere, ho scritto comprendere prima di giudicare, questo è il motto dell'associazione. Il giudizio poi ci vuole, perché bisogna pure a un certo punto determinare ciò che si può e ciò che non si può, questo è chiaro, ma prima comprendere. Comprendere è molto difficile, comprendere realmente molto molto difficile. Perché? Perché l'attività di comprensione, c'è un capitolo nel libro che è dedicato all'ascolto. Comprendere vuol dire sospendere i nostri giudizi, i nostri pensieri, che sono tutti prefabbricati, di cui siamo tutti molto molto gelosi, e avere preso questa sufficiente distanza dalla nostra vita, soprattutto emotiva, per poter contenere la vita dell'altro, per poter sentire l'altro. Operazione molto difficile, alla quale evidentemente sono stato allenato nel mio mestiere in tutti questi anni. Quando è tempo, mi blocca. Un articolo che amo molto di questo libro è Le nostre amiche emozioni, perché, ve lo cito, poi magari parlo anche di qualcos'altro, ve lo cito proprio perché normalmente si ha molto paura di mettere le mani sul mondo inconscio, emozioni, sentimenti, affetti, abitudini, modi di essere, e lo si vede quasi come una specie di nemico interno. Molte volte si ha anche molta paura di andare dagli psicologi. Quante persone mi hanno detto vorrei venire da lei e poi non ho mai visto nessuno. Allora, adesso apro una breve parentesi: alla NBC, quando mi hanno intervistato, mi hanno chiesto se avevo più pazienti donne o più pazienti uomini. La risposta è stata più pazienti donne. Mi è spiaciuto di non aver spiegato perché, che adesso invece posso spiegare, perché le donne sono più coraggiose, gli uomini hanno più paura. Abbiamo più volontà, lo sappiamo questo. Sì, di metterci le mani dentro. Allora, ecco perché. Ecco perché amo questo articolo, Le nostre amiche emozioni. Proprio perché invece sentiamo l'inconscio come quello che io definisco il nostro più grande amico. Si accomodi pure se ha pazienza di ascoltarmi. Lei sa cosa faccio? Cosa sto facendo? Ah, è il prossimo autore. È il suo collega. Collega? Ah, oh, vabbè, no, volevo venire a salutarmi. Saluto Cassetta, ciao. Grazie di essere qui. Stavo parlando del nostro modo inconscio, e quindi per dire che siamo gli amici, perché, credetemi, ve lo dico per tanta, tanta esperienza fatta, è il nostro miglior consigliere. Qual è la difficoltà? È quella di capirlo, di decodificarlo, soprattutto attraverso i sogni, poi l'apsus e avanti. Nel sogno effettivamente capite che l'inconscio lì si esprime nel modo più puro che si possa pensare, perché non è che alla sera ci addormentiamo e diciamo dunque cosa voglio sognare stanotte. Questo di solito non funziona. Ecco perché noi ci affidiamo molto al sogno. E a volte addirittura è molto bello con alcuni pazienti, non con tutti ma con alcuni, e che riusciamo a creare una sorta di circolarità, per cui il paziente mi racconta una certa situazione, io mi impregno degli aspetti soprattutto emozionali di quello che mi racconta e li interpreto. Il paziente sogna sulla base dell'interpretazione e me lo riporta sotto forma di elaborazione inconscia. È stupendo vedere questa circolarità che si crea. Sono il primo a rendermi conto che non è facile comprendere questi messaggi, però mi fa piacere dirvi, la parte più amica di noi, più vera, più autentica di noi, è proprio il nostro mondo inconscio, che è la parte sottostante dell'iceberg. Un altro articolo, ve ne cito così come mi vengono in memoria, Regole e cuore. Un articolo che amo anche questo molto, perché ho cercato di far vedere come funziona bene una personalità che si muove costantemente fra la regola, il rispetto della regola, e dall'altra parte il cuore, il rispetto delle emozioni e dei sentimenti. Quando una mente si irrigidisce sull'uno o sull'altro aspetto, questa mente si impoverisce e funziona meno bene, o addirittura male. Allora, ho cercato in questo articolo di far vedere quanto sia importante e l'una e l'altra parte, ma soprattutto quanto sia importante un dialogo continuo fra le due parti. Il genitore sufficientemente buono, no? Come ci dice Winnicott, molto bella questa espressione dei grandi autori. Il bambino non ha bisogno di una madre perfetta, eccellente, ha bisogno di una madre sufficientemente buona. Sarebbe già tutto. Che è già tutto. È proprio quella mamma che sa passare le regole, non dice questo si fa, questo non si fa. No, non è così. Però nella regola c'è sempre lo stato emotivo che la accompagna. Perché è la regola che sta dando a un essere in formazione, un essere in crescita. Ancora un articolo sul tempo, consapevolezza su questo aspetto, che è a mio avviso di fondamentale importanza, dalle prime cose che vi ho detto lo avrete già certamente intuito. La consapevolezza è un insieme di cognitivo e di emotivo. Nella consapevolezza, che vuol dire io capisco l'altro, non c'è soltanto il dato cognitivo, ma insieme c'è il dato empatico, cioè c'è la conoscere come l'altro è, ma con la sua storia, con il suo mondo intorno, perché non siamo delle isole. E questo quindi è un altro articolo che mi piace citare. Ancora un altro, questo è anche molto particolare, il risarcimento. Questo articolo mi è stato suggerito da una paziente che adesso ha una cinquantina d'anni, abbiamo iniziato il nostro lavoro che ne aveva circa 40, e una donna che ha avuto un'infanzia anche lei terribile, aveva due genitori teisti, donna che ce n'è uno, quindi il bambino che cosa fa? Arriva il padre, normalmente l'uomo, ma non sempre. E però si rifugia dalla madre. Questa bambina non poteva rifugiarsi né dal padre né dalla madre perché arrivavano insieme fuori di testa. E mi ha raccontato di situazioni, questo all'inizio dell'analisi, in cui non sapendo più che fare si andava a rifugiare sotto il tavolo, sotto un angolo del tavolo il più rannicchiato possibile, aspettando che la tempesta finisse. La mente di questa donna è stata completamente destabilizzata. Io non ho mai visto sul divano del lettino, quando lo uso, non lo uso sempre, ma in alcuni casi sì, non ho mai visto tanta angoscia come l'ho vista in questa persona quando l'analisi faceva emergere ovviamente tutte queste cose, perché la funzione è proprio quella, non per poter emergere e quindi poi liberarci, depurare di tutto questo. Addirittura l'ho vista ballare sul lettino, proprio sobbalzare sul lettino dall'angoscia che provava a ricordare tutte queste situazioni. A un certo punto questa storia è finita, lei tanto si è felicemente sposata e ha messo in piedi un negozio bellissimo, vende fiori e fa delle composizioni floreali stupende, io stesso le ho chieste qualche volta, veramente molto molto molto belle, un po' meno brava nel commercio perché non ha questo animo della contabilità, dell'organizzazione, ma nella costruzione di questi ornamenti floreali che fa anche per matrimoni, per cerimonie, è molto molto brava. A un certo punto dell'analisi lei è stata capace di parlare ai suoi genitori di tutte le sofferenze che loro le hanno procurato. Ci vuole un coraggio, vi assicuro, grandissimo, ma l'ha fatto. Il padre è rimasto fermo, mutaccio di fronte a questo, l'ha fatto una domenica pomeriggio, io dico sempre di fare queste cose la domenica pomeriggio alle 4, che è il momento in cui si è finito, pranzato, magari un pranzo un po' più ricco del solito, e in questa domenica pomeriggio lei ha preso i suoi genitori da soli, due fratelli, ma lì non c'erano, e ha spiegato loro tutto il male che loro hanno fatto. E ha chiesto, prego, che ha chiesto alla mamma, dice, fate qualcosa per dirmi che vi rendete conto di quello che del male che mi avete fatto. C'è stato un momento bellissimo che vi racconto con molta commozione ancora oggi, a distanza di anni. La mamma in silenzio è partita, è una famiglia con pochi mezzi, è andata a prendere l'unica collana preziosa che aveva, è arrivata in soggiorno dove si svolgeva il colloquio e ha detto, ecco, questa la porterai, è regalo di tua madre. Quante soddisfazioni dà la mia professione, però vi assicuro che per arrivare lì non si arriva in un baleno. E mi ha dato modo di scrivere questo articolo, il risarcimento, che è molto di più che il perdono, è proprio il riconoscimento, fatto in modo simbolico in quel caso, il riconoscimento di un male che ti abbiamo fatto e che non ci rendevamo conto di farti. Prego. Questo è molto importante. Molte persone, diciamo quarantenni, sì, che attribuiscono ai genitori tante colpe per quello che sono, cioè per i propri difetti personali, per le proprie carenze personali, attribuiscono ai genitori tante colpe. Io dico, a 40 anni, cioè, non hai avuto modo di appunto anche essere clemente, cioè di rielaborare il rapporto con i tuoi genitori. Soprattutto tenendo presente, cosa che io dico sempre con i miei pazienti, ricordiamoci che i vostri genitori che vi hanno fatto questi torti, però attenzione, non sono nati genitori. Mi richiamo all'ordine. Agli arresti domiciliari. Io sono costretto a dare il mastino. ma proprio ballava col sorriso. Allora, finisco questo pensiero e chiudo. Chi colpevolizza? Esatto, e dico: ricordatevi che i vostri genitori non sono nati genitori, sono stati prima figli. Vi ringrazio di avermi ascoltato. Musica, grazie. Dottor Giuseppe Maiorlo, psicoanalista, scrittore, giornalista, editorialista, tra l'altro sul quotidiano più diffuso in Alto Adige, lei appare spessissimo con delle proposte, con dei suggerimenti, con delle garanzie, perché tutto sommato il nome garantisce nel momento in cui lei suggerisce qualche cosa, dice, ha detto lo so, ma io perché non dobbiamo attenerci a quello che sta suggerendo, dice la gente, e si accorge di questo contatto con il popolo, ma non tramite il giornale, tramite altre cose che vado facendo, sì, però una grossa responsabilità. Sono convinto, ma nella stessa responsabilità lei ci dice, per quale motivo in una riunione come quella che stiamo vivendo in questi giorni lei ci porta le favole per i bambini, lei ci porta qualche cosa che a noi possono interessare se poi sappiamo raccontarle ai bambini che abbiamo a disposizione, ma di solito si conoscevano 50, 60, 70 anni fa e lei ce le propone, per quale motivo? Dov'è il gioco? Allora, forse è proprio quello che lei accennava al fatto che stiamo vivendo un momento oscuro, certo. Un momento difficile, sia a livello individuale, io credo, che collettivo, comunità. Quindi, ma credo che le fiabe, favole, poi magari possiamo anche provare a vedere che c'è una differenza tra fiabe, favole e leggende, per esempio, forse ci aiutano a fare quel lavoro che diceva il collega prima, analista, facciamo quando abbiamo bisogno e ovviamente con la mediazione di un terapeuta, di un analista. Le fiabe io credo che abbiano il potere proprio di farci fare un lavoro, anche non dico da soli, ma comunque con la mediazione dei simboli, perché le fiabe sono una ricchezza inestimabile di simboli che ci vengono poi trasferiti in forma orale, come sapete, per questo che forse adesso noi pensiamo che le fiabe siano state scritte, non è vero, le fiabe scritte sono una cosa piuttosto recente nella nostra cultura occidentale, i fratelli Grimm si sono dati l'incarico di fare questo, per raccogliere un patrimonio che effettivamente era un patrimonio ricchissimo e importante, no? Di elementi che permettevano di conoscere la realtà, magari di affrontarla, di conoscere le difficoltà, di sapere come si è sviluppato appunto l'uomo, quali sono le conquiste che ha fatto, e tutte queste informazioni sono passate per secoli e secoli attraverso le fiabe. Quindi il poterle utilizzare ancora oggi ci mette in contatto con quello che, ecco, cito Jung, il collega ha parlato di inconscio. Jung sosteneva che c'è, oltre che era un allievo poi di Freud, Jung, oltre all'inconscio personale c'è un inconscio collettivo, che a mio avviso, guardate, come avere la mappa genetica della nostra evoluzione psichica, no? E quindi le fiabe hanno una ricchezza importante che forse proprio in questo momento di grande difficoltà, di grande oscurità, di tempi, c'è una persona che vorremmo si rendesse conto che la sala ha bisogno di silenzio. Grazie. Lei non ci lasciava distrarre, ma qualcuno va bene, fastidio. Ecco, quindi credo che questo genere letterario totalmente radicato nella nostra storia possa servire agli adulti, anche se noi oggi li consideriamo strumenti per i bambini, ma un tempo le fiabe non erano state inventate, pensate, raccontate ai bambini, venivano raccontate agli adulti. E che motivo? Proprio per trasferire del sapere, per far sapere che cosa si era fatto prima, lasciare una eredità ai giovani che arrivavano. Era con il gioco all'inizio del sapere. Sì, sì, ma perché ovviamente c'era bisogno di avere una storia. Noi abbiamo la necessità di avere dentro di noi una storia e tenere i legami tra il passato. Si porta strumenti ludici così oppure strumenti per adulti più. Allora, diciamo che le fiamme che noi, io e mia moglie, che facciamo poi lo stesso lavoro, utilizziamo, nascono in contesto terapeutico inizialmente, cioè nel senso che avevamo opportunità di costruire delle storie con i bambini che venivano a chiedere aiuto, che i genitori ci portavano per aiutarli, e abbiamo cominciato a utilizzare il disegno, la fiaba, che sono tutti strumenti che si usano con i bambini, non possiamo fare la stessa cosa che facciamo con gli adulti. Però in questo gioco, ecco, che era poi un gioco, il disegnare, il raccontare, che aveva una circolarità. Prima il collega diceva una cosa molto importante che facciamo, da cui poi sono nate le storie che abbiamo scritto noi. Le prime storie sono state scritte dai bambini insieme con noi. Cioè, i bambini avevano un tema, o comunque si muoveva attorno ad un argomento, scrivevano, disegnavano, non scrivevano, raccontavano un pezzo di storia, noi ne mettevamo un altro, e poi il bambino continuava, e così sono nate le prime storie. Le prime storie terapeutiche, proprio per aiutare i bambini a superare determinati problemi. Era un gioco che il bambino faceva, ma dove metteva dentro tutto il suo mondo interno. Era un gioco che faceva appunto con le parole, con il disegno, con la sabbia. Io vengo da una formazione che utilizza un po' tutti questi strumenti nell'ambito terapeutico, che poi si possono utilizzare anche con gli adulti. E questo è quello che dicevo prima, le storie, le fiabe che venivano raccontate una volta, venivano raccontate agli adulti anche che stavano male, che andavano dal capo del villaggio e chiedevano, diceva, io sto male, e il capo del villaggio, una specie di sacerdote poteva anche essere, e non faceva altro che ascoltare qual era il problema e poi gli raccontava una storia e gli diceva, adesso vai e torna quando questa storia ti ha dato qualche cosa. Era analisi, era l'analisi già allora. E quindi questo significa che le storie, le fiabe per esempio, le possiamo raccontare anche agli adulti. Io in terapia racconto o chiedo per esempio se uno ha una fiaba che si ricorda. Perché? Perché quella fiaba che si ricorda vuol dire che ha lasciato un segno. Dobbiamo ricordare un fatto che è chi ha lavorato, conosce i bambini, sa che quando noi raccontiamo una fiaba a un bambino, quel bambino ascolta questa fiaba, partecipa, più noi la raccontiamo con drammaturgia, più il bambino ovviamente partecipa, e dopo la fine ci dice, me la racconti ancora? E il genitore o l'adulto me la racconta una volta, e poi il bambino torna a dire, me la racconti ancora? Sì, a un certo punto, attenzione, a quel punto il genitore la racconta e la deve raccontare esattamente come l'ha raccontata la prima volta, perché se sbaglia una parola, no, non è così. Dopodiché a un certo punto il bambino dice basta, raccontamene un'altra. Perché quello che la fiaba voleva dire, che raccontava per esempio delle paure, tutte le fiabe sono fiabe di paura se voi andate a vederle, Cioè, c'è sempre dentro l'elemento angosciante che preoccupa, ci sono i mostri, ci sono le streghe, gli incantesimi, c'è tutto questo mondo fantastico che è il mondo del bambino. A un certo punto il bambino dice basta, racconta per un'altra, adesso non mi interessa più. Questo significa che abbiamo dato alimento alla psiche al punto tale che a quel punto quei problemi che il bambino stava affrontando e che vede, che ritrova nella fiaba, sono per lui in quel momento superati. Dobbiamo passare avanti. Io ho voluto distrarre la bella vostra. Vabbè. Però adesso noi diciamo, ci dica cosa voleva raccontarci quest'oggi. Allora, beh, io ho portato un libro che non è propriamente un libro a cui, cioè del tipo che abbiamo scritto con i bambini e che abbiamo scritto per i bambini. Perché? Perché le storie che abbiamo scritto, a parte che non si possono più scrivere fiabe, non c'è la possibilità. Certo, perché le fiabe non avevano un autore, tranne qualche caso eccezionale. Abbiamo avuto il nostro Collodi che ha scritto una bellissima fiaba, Andersen, ecco, ma se no le fiabe non hanno un autore, i Grimm non sono gli autori. Non siamo distratti o non sono distratti dai media? Darsi sicuramente, però non abbiamo la possibilità perché è un patrimonio culturale della comunità. Cenerentola, che secondo gli studi, per esempio, di un grande studioso che conosciamo tutti, che si chiama Bruno Bettelheim, diceva Bettelheim che la fiaba di Cenerentola compare già 9 secoli prima di Cristo in Cina. E se noi andiamo a vedere, la troviamo poi sparsa in tutte le altre culture, senza poter dire che queste culture hanno trasferito questi contenuti, no? Allora, appartengono all'umanità, non possiamo scriverle, possiamo solo copiare l'architettura di questi racconti, che è un'architettura particolare. Guardate che ci sono una quantità di studi che mettono in evidenza come la fiaba abbia una costruzione particolarissima e sempre, sempre uguale a se stessa. Per cui, per dire, un nome che si è occupato molto di questo è Propp, il quale ha studiato tutte le funzioni che ha la fiaba. Allora, noi non possiamo fare più di andare a vedere come è strutturata la fiaba, capiamo l'intelaiatura, e noi abbiamo cercato di fare questo. Vi dico questo perché c'è una grande differenza tra fiaba e favola. Tanto per intenderci, la fiaba non spiega niente e non dice assolutamente niente di quello che si deve fare, mentre la favola sì. La favola, ve la ricordate? La volpe e l'uva, sempre. Ce la ricordiamo tutti, no? La cicala e la formica. Alla fine tutte queste storie, tutte queste narrazioni finivano con una frase. Bravo, esattamente. Mentre le fiabe, no. Le fiabe finiscono sempre e vissero tutti felici. Perché? Perché c'è sempre la bambina che sposa il principe, il principe che sposa il bambino che sposa la principessa, cioè c'è sempre un finale importante, conclusivo, dopo tante peripezie, dopo tante lotte, dopo tanti scontri, dopo tante prove, dopo incantesimi. Cioè, questa la fiaba dice è la vita. Tu dovrai attraversare tutta la tua vita in questo modo. Dovrai confrontarti con le cose. Ma lei ci ha appena detto che ci sono troppe distrazioni per i bambini, non vengono più accattivati dalla fiaba, dalla favola. Assolutamente no. È difficile che adesso i bambini vengano, loro sono portati per ascoltare, per entrare nel mondo fiabesco. Io sono diventato bambino ascoltando questo mondo. E magari invece noi gli proponiamo, come stiamo proponendo, troppo reale, troppo cognitivo, certo. fantasia, no? E quindi il loro mondo si sta riducendo. Mi sto domandando effettivamente quanto stiamo dando e quanto stiamo togliendo. Siamo, io, lei ha citato il fatto che io scriva sul giornale, sull'Alto Adige, come mi capita ormai di farlo regolarmente perché mi hanno chiesto, e io continuo a battere su questo tasto che abbiamo una comunità educante che si è persa, abbiamo dei genitori che non sanno più fare i genitori, sono severo in certi momenti, ci sono degli adulti di riferimento che sono più bambini dei bambini, e allora dico, che cosa possono dare queste figure che non leggono più, non sanno più neanche leggere una fiaba? Io in certe occasioni vado a leggere le fiabe nelle scuole dell'infanzia. E poi ho iniziato a fare dei corsi di dizione, di recitazione per i genitori su come si legge una fiaba, su come si racconta, perché sarebbe meglio raccontarla piuttosto che leggerla. Perché? Perché se io la leggo così in modo molto, non partecipo, non entro dentro, devo analizzare, dice. Perché devo entrare dentro, cioè, devo partecipare anch'io alle emozioni che mi dà la fiaba. E più la fiaba trasmette questo, e più ci sono scontri. Una volta si diceva, no, per carità, questa fiaba è troppo truculenta, c'è sangue, c'è... No, deve essere così, perché alla fine non si può arrivare alla fine con un finale negativo. Bisogna che ci sia un finale positivo. Se la ricorda la fiammiferaia? Ecco, quella è una fiaba? No, non è una fiaba. Quella è una devastazione. Perché? Perché il bambino è devastazione dal punto di vista, cioè, non ti dà speranza. La fiaba ha questo valore di crearti la fiducia, di darti sostegno alla speranza che tu ce la puoi fare. Non ti insegna niente, te la devi cavare da solo. Credo che i bambini di oggi rifiutino personaggi come le femminile, perché c'è povertà. Ed è tanta miseria, questo personaggio che non riesce a svincolarsi. Sì, anche questo. Che mondo che non questo, anche questo è vero, certo. Però sento che è più un riflesso del nostro mondo adulto che portiamo lì e che finisce per avvolgere i bambini. Ecco, questo. Quindi, ritornando alla domanda, perché mi sono divagato, ma mi piace che lei mi stia. Sono proprio stuzzicato. Mi fa benissimo. Ma vada. Le dicevo che questo libro che ecco qui, Bulli e Bulle, è un libro di storie. Ma è vero. Certo, è questo il punto. Perché come lei, non so, ci vorrebbe un padre che ha una famiglia. So. Abbia pazienza. No, è impossibile che nella scuola sorgano i buchi che una volta non c'erano. Eppure. No. Non c'erano. No, c'erano. Io li ho conosciuti direttamente. Allora si mascheravano. No, io li ho sentiti sulla mia pelle. Sto finendo un libro proprio per i genitori sul bullismo e sul cyberbullismo. E lì dico, guardate che l'abbiamo vissuta tutti, questa storia di essere presi in giro, picchiati, malmenati, c'erano, però c'era una cosa diversa, c'era un contesto anche della comunità educante che diceva, ok, ti ho visto, ti ho beccato, adesso c'è la punizione. Queste cose succedevano, quando succedevano, certamente a scuola, se venivano fuori e c'era qualcuno che prendeva dei provvedimenti. Sì. Se succedevano nel cortile, c'erano mille occhi che guardavano. Io quante volte me la prendevo con la vicina di casa che spiona, vedeva quello che facevo in cortile e subito avvisava mia madre, e quando arrivavo su, mia madre e mio padre ovviamente facevano la loro parte. No? Adesso non ci sono più. Tutti vedono, girano la testa dall'altra parte. Quindi il fenomeno sta aumentando perché non c'è un controllo, non c'è un contenimento. Allora su queste cose dobbiamo combattere davvero. È una lotta, è una sfida educativa di questo tempo, che è aumentata enormemente da 10 anni a questa parte, esattamente 10 anni a questa parte. La cosa di più. No, non di più. Questo signore che abbiamo qui in tasca ha 11 anni. Ecco, tutto è cambiato da lì. Il cyberbullismo si è diffuso enormemente con questo strumento. Ed è scomparsa la licenza. È scomparsa la cultura. Non lo so, la cultura forse il sapere. O sta riducendo, sì, certo, certo. No, se tutti possono dire quello che vogliono, sì. Diceva ecco, con la prima si poteva parlare al bar, adesso con i social, sui social, sono tutti loro. Anche i cretini. Tutti che diciamo. Ecco, per cui voglio dire, su questo pensate bisogna combattere. Allora, l'utilizzare uno strumento da dare ai bambini, che poi dovrebbe essere letto appunto dal genitore, e che quindi anche il genitore capisca che cos'è, è diventato uno strumento non più fiabesco. Certo, c'è la magia, ci sono in queste storie che abbiamo scritto, ci sono le avventure, le imprese, gli scontri, le cose che si devono, che un bambino deve superare, probabilmente oggi sono anche quelle di confrontarsi con questo fatto, con le prese in giro, le burla, le offese, le prepotenze, che poi diventano ancora più subdole quando smettono di essere fisiche e diventano squisitamente ed esclusivamente psicologiche, ma mortali, perché questo è il punto. Il cyberbullismo è mortale, mentre certamente si faceva male se prendevamo, se ci facevamo sgambetto, ci prendevano a botte dietro nei bagni o nel cortile quando le maestre erano girate da un'altra parte, però era un male fisico che puoi contenere, che forse puoi dire ok, anzi i ragazzi di oggi si fanno male fisicamente, l'autolesionismo che sta aumentando, perché non ce la fanno a sopportare un dolore interno. Questa è la lettura che stiamo dando di un fenomeno che sta crescendo a dismisura, che ogni giorno io incontro ragazzi che si tagliano dove nessuno vede, perché dopo si mettono le felpe che allungano, nessuno, si tagliano sulle gambe, sulla pancia, e nessuno vede, non vedono, no? Allora questo lo dobbiamo prevenire, non possiamo fare altro. Le storie nascono da questo bisogno, questa storia sul bullismo, ha bisogno però di dire anche ai bambini, guardate, bisogna che vi attrezziate, vi proteggiate da soli. È una dichiarazione, ve lo dico, ma ormai sono molti anni che stiamo lavorando su questo versante, dando per esempio ai bambini piccoli, nel 2000 abbiamo cominciato a scrivere una storia per i bambini di 3-4 anni su come bisogna fare attenzione al pedofilo. E allora già lì era una dichiarazione di fallimento. Siamo adulti falliti, perché dobbiamo dire ai bambini e agli adolescenti: arrangiatevi. Ecco, questo libro nasce da questo. Diamo degli strumenti, cerchiamo di dare degli strumenti ai bambini per sapere come ci si deve difendere. Tant'è, ecco, io ve l'ho portato, magari dopo chi vuole prendere, all'interno abbiamo messo un decalogo che poi nel libro diventa un manifesto, viene appeso nella classe, viene appesa in classe, per almeno 10 cose, un decalogo, 10 cose da sapere, che devono sapere i bambini, che devono sapere anche gli adulti, su come fare di fronte al bullo, al cyberbullo e via di seguito. Ecco, quindi, e poi vorrei che se vi ho, come dire, suscitato delle domande, è meglio che ci confrontiamo. Non è un libro di fiabe nel senso classico, certo. Non le potevamo scrivere, lo sapevamo, eravamo consapevoli, però gli altri libri che abbiamo scritto di fiabe, abbiamo sempre detto, sono fiabole. Abbiamo inventato questo termine, fiabole, che è l'unione di fiaba e favola. La favola si sente così. 5 minuti di domande. Sì. Prego. Io dico una cosa un po' più a controcorrente rispetto al bullismo, ma non, diciamo, uno spunto di riflessione. Certo. Anche perché io ho insegnato per 5 anni nella scuola professionale comunicazione, quindi a ragazzi di 16, 17 anni, eccetera, anche a me. Ogni anno mi è capitato un bullo nella classe. Altri insegnanti lo cacciavano via. Io non ho mai cacciato via nessuno che facesse il bullo. Ho cercato sempre di coinvolgerlo. E devo dire che ho avuto anche un discreto successo. Ho cercato di capire qual era un talento del ragazzo e l'ho coinvolto a esprimere questo talento e a valorizzarlo per tutta la classe, quindi mantenendolo sempre in classe. Certo. Magari un po' deviando da quella che era la lezione prescritta, ortodossa, eccetera, eccetera, insomma. Però al fondo era anche una lezione, appunto, nel mio ambito di comunicazione, oltre che in fondo anche di psicologia. Allora io mi chiedo delle volte, quando leggo notizie dei bulli che hanno picchiato l'insegnante, ma l'insegnante era all'altezza di gestire il bullo o si comportava in modo tale addirittura da favorire il suo bullismo? Perché ovviamente se lo si colpevolizza sempre di più, quindi se gli si ridà, si conferma sempre di più l'identità di essere una persona come il bullo, eccetera, eccetera, il mazzo, diciamo, piccolo, allora si fa un grave errore. Quindi penso che ci sia. Un attimo, perché se vediamo se ha da rispondere, insomma, ma io sono in perfetta sintonia e non sento un controcorrente rispetto al mio modo di vedere la cosa. Il bullo è sicuramente un ragazzo, un bambino che sta male, che quindi ha bisogno di essere aiutato, trattato, e che quindi, ecco, ci vogliono degli adulti competenti che sappiano valorizzare. Guardate che il bullo nella stragrande maggioranza dei casi viene fuori da dove non ci sono adulti che si occupano di lui. Non ci sono adulti normativi, come si dice, che sanno dare delle regole, contenimento. Quindi sicuramente la domanda che lei si pone oggi, vedendo appunto, ecco, dicevamo, un mondo che va in un certo modo, dove gli adolescenti aggrediscono, picchiano gli adulti, adesso a noi sta facendo impressione questo dato, no, che nella scuola, l'editore di Brescia, dove io anche peraltro vivo, l'altro giorno ha pubblicato un articolo molto importante dicendo: siamo il paese dove, l'unico al mondo dove avvengono queste situazioni, dove i professori vengono più picchiati, dati alla mano. Non lo dico io, lo dice un provveditore di una provincia che ha 1.300.000. Quindi voglio dire, c'è qualcosa che sta accadendo, no? Questa cosa sta sfuggendo di mano, certamente, però il problema 10 anni fa in Spagna era già conosciuto, nel senso che già 10 anni fa c'era un servizio telefonico di consulenza per gli adulti, genitori e insegnanti che erano picchiati dai figli. Quindi vuol dire che c'era già 10 anni fa. Da noi non si è mai potuto fare un discorso di questo genere. Perché? Perché abbiamo una comunità educante che è più attestata sul livello che bravo che sei. Quando succede qualche cosa, quando un ragazzo, un bambino fa un qualche cosa di anomalo, la parola che diciamo è stata una bravata, è stata una ragazzata. E quindi dove vogliamo andare? Se non siamo capaci di educare. Certamente quei ragazzi che tirano le sedie al professore, alla professoressa di Mercate, 2 settimane fa, sono diventati più organizzati, stanno alzando il tiro. E certo, perché se prima lo facevano di nascosto, adesso hanno spento la luce per lanciare le sedie, no? Quindi dobbiamo renderci conto di questo aspetto, che sta aumentando. Ecco, là, ieri mi diceva appunto una persona, diceva, ma è premeditazione questo, importante? No, sono io. Io so che lei ha spesso contatto con giovani, individualmente. Sì, per il lavoro che fa. Via, eccetera. Sì, sì. Ma da dove raccolgono i ragazzi che vanno nelle scuole medie interiori? Da dove raccolgono l'arroganza, la presunzione, la strapotenza di quel tipo per diventare delinquenti? Qui qua, siamo io. Cioè, li istruisce lei, vuol dire, no? Io non lo so, darsi anche qualche cosa, ma voglio dire, siamo noi adulti che... Cioè, io mi rifiuto di lanciare addosso ai bambini, ai ragazzi, delle pietre. Certamente sono in difficoltà, ma non sono sempre colpevoli di tutto. Siamo noi che forse qualche cosa non sappiamo fare più. Vero. No? E quindi questo mi ritrova perfettamente. Un bel film, la classe. Ah, ci ha visto, no? Che mette in evidenza proprio anche i limiti dell'insegnante, cioè che non è per... la gestione dello stress deve essere parte della formazione dell'insegnante, e invece purtroppo si fa una formazione sempre analizziamo il passo solitario e va. Gli insegnanti, e lo dico da insegnante perché ho insegnato nelle scuole superiori per 20 anni, poi sono andato a insegnare all'università, sono 25 anni che insegno all'università, e gli insegnanti non vengono preparati per fare questo lavoro. Questa è la realtà, no? E vi dico, aveva detto anche la statistica prima, che da noi ci sono i bulli in modo superiore rispetto agli altri paesi, ma anche è vero che da noi si fanno investimenti nella formazione della scuola meno che in altri paesi. Assolutamente, c'è un collegamento stretto tra le due cose. Dobbiamo finire. Posso dire un applauso? Noi facciamo un applauso. Visto che ho passato Nirvana, tra i 6 anni, e sono importantissime tutte le cose che ha detto dottor Maiotti. Mi viene in mente il bisogno dei genitori rispetto al fatto delle fiabe che dicevano, ma sono turbulente le fiabe, no? Perché se pensiamo a Hansel e Gretel, che i genitori li abbandonano nel bosco, se pensiamo al pifferaio magico che riporta tutti col piffero dentro la cosa, e loro volevano cambiarla, dicevano no, io non ho coraggio di raccontare così la fiaba del mio bambino, troppo violenta, triste, eccetera, io la cambio, no? Allora devi insegnare ai genitori che no, che la fiaba invece è proprio questo messaggio, che i bambini devono fare questo passaggio per arrivare poi al fine bello, eccetera, no? Ecco, mi viene in mente questa cosa. Ma è così, hai fatto bene sottolineare. È quello che è stato fatto, dentro nella teoria delle fiabe o delle favole. Ma è quello che è stato fatto, scusate il gioco di parole, con Pinocchio, dove è stato semplificato, edulcorato. Io mi sono presa la briga da poco, nonostante i miei 50 anni e più, mi sono presa la briga da poco di leggere Pinocchio nella versione integrale e originale, avevo gli incubi di notte. È professionalità quella, quella è professionalità. È una cosa più non è spocchiosa, ma integrale e originale di Pinocchio. E insomma, è un'esperienza da lingua. Certo, però alla fine ci solleviamo l'animo, certo. E l'anima proprio perché la storia finisce bene. Lo dico, no? Dubbia lezione di maestra alimentare e di attrice professionista. Ma infatti, bene. Grazie al numeroso pubblico di questa mattina.